10. Ma tu hai ricevuto ugualmente. A chi non andava? Non andava il duplex. E qua sono, non sto combinando niente, me ne sono stato poco fa e stavo praticamente guardando una cosa al computer. E la arriva. L'altro giorno c'era uno che disturbava fuori frequenza. E quando parlavo io mettevo la portante, capito? Ho detto che c'era qualcuno che metteva la portante fuori frequenza. Quando io parlavo lui metteva la portante, però era o prima o dopo di me nel canale. E che ne so, lasciali giocare. E cosa ne so io delle patologie altrui? Mica sono medico. Già non c'è nessuno, figurati se ci fosse stata gente allora. Cazzo, sto pensando se spenderli o no i soldi per mettermi l'antenna sul tetto. Ci sto proprio pensando, per la gente che c'è intanto, mi sa che non ne vale la pena andare al cavo di Ruduttu. E io se non è penduno da ridere, mi compro il motorino al posto del capito. E infatti ci sto pensando. E uno di quei 125, così me ne vado al mare con mia moglie, cosa cazzo stai lì a tirare la lunga. E poi cazzo, il bello che mi posso andare a fare la spesa, cioè quando prendo la macchina la metto lì, la moto, e così non mi stanco la gamba. In moto mai andata ci sei? Sì. Ha detto sì. Molto costerà uno di quegli scarabeo 125. Sì, col casco, te l'immagini? Quindi cosa conviene prendere? Piaggio, questa cagiva molto costa. Quella che hai detto tu molto costa. Uno di quegli scooter 125, se si trovano usati oppure conviene comprarlo nuovo, però bisogna vedere anche due canoni. Non ne conosco di gente. Te credo a trovarlo buono a pochi soldi, se no tocca cazzo, io quello che ho venduto lì era nuovo, quello era 50, ma cazzo era nuovo, quattro tempi poi. È quello, eh. Allora cosa dici di mettere l'antenna e di mettermi i soldi da parte per lo scooter poi? Una bella? No, sono troppo umane, gatto. La voglio piccola, io, leggera. Mi serve solo per fare le commissioni, non per fare il figo, che cazzo me ne fotte? Conosco. E anche a me mi serve con la pedana, capito? E ma te ti alza, cosa ti andrebbe bene? Una F50. Nonna! Al limite l'avremmo fatta a 125, problemi non ce n'erano per quello, tanto chi la controlla la F50. Anche tu servi anche per caricare Roma. Vabbè, ma non al cassone. Ho capito. Però sarebbe bello un bello scooter. A me sarebbe piaciuta la Vespa 50, cazzo, me l'avrei fatta a 150 e 125. Solo che me la sequestrano in giro di 2 giorni. Natalino! Ehi, lo so, ma cazzo, sono a miscela quelle, io voglio uno scooter di 4 tempi, ti pongo su benzina e me ne asciugo. E vado. Con la pedana. A me mi piace quello scarabeo che ha le ruote grandi, 125. E va il di Max, mi sembra, in quel senso cilindrata chi suoi. 125, boh. Non lo so. Qualità di celle cinesi. Quello era 500 in cilindrata, era un di Max aveva. La rincusente di cilindrata. Ciao Natalino. Ciao Natalino. Io so che aveva il di Max nero lui ed era 500 quello di cilindra. Ebbene, Natalino Max, Natalino, non sapevo se avevi il chimico per caso. Lo so, ma dice che erano difettosi, ne aveva comprato uno nuovo, coso, 125 mi sembra che fosse, Gianni doppio rum, e dice che era difettoso, bisia Ozu, qua, io se lo voglio perfetto, ma io preferisco prendermi un Piaggio, anzi Aprilia mi barrieri su, chi su Scarabeo, sempre di Rabbiaggio, Eppure in Viale San Francesco c'è un negozio di moto, adesso vado a vedere se ci hanno qualche usato, oppure quanto costano nuovi, là, per farmi un'idea. Se aspetto un inverno allora mi do capo un'immirantena prima. Prima mi metto l'antenna e poi mi metto da parte i soldi per il motorino. Perché io con questa gamba così cazzo non posso andare. Ok, a chi c'è Moso? Negrigia non c'è, puoi parlare a ruota libera, ruoto libero, rutto libero, frittata con più cipolle, anzi frittatona con cipolle, rutto libero. Ah no. Cazzo, via da te. Che non hai problemi. Occhio, se ne pare a usuraggio, ma poi come ti mangio il bisinaggio. Natalino, mi senti? Queste palazzine qui sono deboli, non si sa mai che allo scorreggio ne va la rogosolo. Usuraggio. Cazzo, quella c'ha un culo che parla da solo. E invece io ci ho fatto molto caso. Sì, ce l'ho ancora qui, cazzo. Cazzo, proprio da solo parla quello. Ehi, già lo so. Posso farlo anche con un apparato solo, Ma ci vuole un'altra persona che parli da un'altra parte. E una volta c'era uno, quando erano appena uscite le UHF, ce le avevo anch'io, l'ho chiamato, so che qui sì, mi vendo tutto. Capitolai chi era, quello che si vendeva tutto, perché ero anche lì. Quello che c'ha doppia la maletta si fa una Sì, la volta che l'ho raccontato, cazzo, c'era Marco e Claudio, pisciati della risa tutti e due. E ha una tromba d'aria, chissà era. Pure a me mi ha lampato l'antenna, paria tagliata a sighetto, Lubaru. A sighetto sembra battagliata. L'ho trovata appoggiata sul tetto perché c'erano i tiranti, se no l'aveva acciappata alla ginara, chissà antenna. Figurati, che... Si è buttato giù il traliccio, poverino. Sì, già lo so, io là c'ho, qua c'ho il volume a zero, mi sembra qualcuno, mica lo sento. Sì, infatti, se no gira gira mi sposto di canico. A zero ira. Ed è in trasmissione volume potenza al massimo. E infatti, no, ma non è entrato nessuno, già sto guardando lo smister. Poi c'ho lo squelch, adesso ho messo. E il volume è alzato, se entra qualcuno già lo sento. E vabbè, domani vado a ritirarmi i soldi che mi sono arrivati. Poi anche quelli di quella persona là devo ritirare. E poi vado a comprarmi due, come cavolo si chiama, due staffe per l'antenna, più l'antenna UHF per la TV, con tutta l'occorrente che serve, almeno c'ho tutto. Poi telefono a quelli della scala aerea e dico di venire a fare un sopralluogo qua. E già lo so, la Fusaro l'avevo presa proprio io da quella che ho io. E adesso non so se ci vuole anche l'amplificatore, che cazzo ne so. Perché ce ne vuole in effetti una solo, però non so come va collegata, se è diretta oppure se ci vuole un amplificatore con un'uscita solo, che ne so. Non so come sono fatte queste di adesso. Sì, per lo Zimino non c'è problema. È il fatto che non la voglio toccare quell'antenna, tanto chissà cosa cazzo gli ha fatto quello stronzo, magari è crepato l'amplificatore, non funziona, cioè non funzionava da me, hai visto cosa che difetto faceva la si roba comparami un televisore nuovo. Meno male che abbiamo controllato, carissimo egregio. E poi io l'antenna la voglio comprare nuova, perché dobbiamo metterci il minor tempo possibile a piazzare tutto il grigio, perché tanto più tempo passa più pago, hai capito cos'è il discorso? Accuccia, in modo che sia tutto piazzato e non vi pensiamo più. E infatti dobbiamo avere tutto pronto quando vengono con la scala aerea. L'antenna è piazzata, pronta a mettere nel coso, nel palo, con l'amplificatore se ci vuole. Adesso vado e chiedo a Cusaro, per il sicuro. Pido tutto nuovo, ma manco non ho ben subito. Una volta che è piazzata, quello dell'ultimo piano ce la prende nel QSO, perché io dormo con la pistola nel cuscino. Vedrai tu, non minaccio malamente. Gli dico, cazzo, se ti attrivi a tu cara che cosa sei tu? Ed è meglio che te ne fuggi da stazza, in America te ne devi fuggire, perché anche lì ti trovo, secondo l'incazzatura che mi prendo, vengo anche lì a cercarti. Ah, io l'alimentatore non agita a cadugava e cantuve, quindi l'alimentazione non è sale all'amplificatore. Quindi se lui mi ha sabotato l'antenna, se la tiene inefficiente, te lo dico io, e poi se la vuole ripristinare deve andare a chiedere il favore a quelli dell'altro palazzo. Però se tu passi con la valetta non può fare niente, perché se tu passi con la valetta manco l'antenna trova più. Ah, oh, la capita l'antenna suia, a fruttidini, che si raccoglie ai paddi, se no voi magari mi denunciate, ma cosa l'ha giusta bottando la gola. Ragazza, tu togli nella mia e boh, e me la butti in strada, poi al cassonetto verde già ci penso io a buttarci. E anche si può fare così. Ma una volta che vede che io ho piazzato l'antenna, mi piace per aggiustarsi la sua, sempre che ci riesca. Sarà fragica, è di 40 anni fa, si deve comprare un bar nuovo e l'antenna nuova, si vuole vedere la televisione, e se no si rimanga così. Infatti se lui mi dice che io lo disturbo con 4 metri di palo e l'antenna sopra i 4 metri di palo, io gli dico andare a prendere in del culo, gli dico, denunciami, così quando vedi ne vedi io, non disturbo, come ci vedi ne si andano. E allora io pago, mica la chiedi, mi chiamo io a chi scemo solo. Lui mi dice che la cazzo vuole. L'importante è che non mi tocchi l'antenna mia, perché se mi tocca l'antenna mia sto andando in questura e mi paga tutti i danni, compresa la scala aerea, perché mi metto l'avvocato, lo mi sto volontando. Questa volta sono deciso, se mi fa più spendere quei soldi della scala aerea è fottito, ha perso in pieno, a chi momento mi tocca l'antenna è fottito. Io l'avverto prima, fatti chiari amicizia lunga, se a me mi succede qualcosa sei tu, io ti tolgo anche le mutande, io dico a chi mi pongo la mutanda e ti arruineggio, perché faccio mandare le fatture a casa tua. Se mi stava buttando giù l'antenna, non hai visto com'era? Che ne faceva di tutti i colori? Mi ha sabotato quella del televisore, perché più che lui non è. Se no va l'antenna, perché quando tu la butti giù ti faccio vedere che è lucida. Cazzo che è nuova. cazzo, non può essere che un'antenna nuova, cazzo, che ha sempre funzionato bene, all'improvviso smetta di funzionare. È una cosa un po' così. Sì. Finta che non mi si cambia la mano a me. Cazzo, ho fatto male, non ho più di luvorti. Ma ti bisogna più di luvorti, sai niente, ma proprio la comprendi. Con le parole non capiscono. Se mi ha detto, cazzo, apro la botola, cazzo, andiamo e facciamo il lavoro. Col cazzo, non ha fatto niente, è più in giro a lavare. Ah, è briciola, che cambiamo? Ehi, e mai la vedrà? Cazzo, io quei giorni che andavamo in un'altra capitulia, i 100 watt fissi. Voglio vedere se si rabbona l'antenna. Certo che la vedo, e sono a 15 watt. Capisce cosa vuol fare, uno che non capisce, facciamolo fare, poi vediamo fin dove arriva, perché lui se cerca di sabotarmi l'antenna della televisione e quella che devo piazzare, allora vuol dire che si arrangia con l'avvocato, mi dico un avvocato di chi di proprio Mazzini, che non molla ne manco un minuto. Signora Lucia, la padrona di quel cagnolino, no, neanche Maria Antonietta, nulla, nessuno si è lamentato. Lucia gliel'ho aggiustato io, a quella con i capelli dritti ugualmente, aspetta il telefono. Già era la Elena è il piccolo, gliel'ho aggiustato io quasi tutti le antenne TV, a quella con i capelli dritti gliel'ho aggiustata io, a Lucia gliel'ho aggiustata io, quello del fondo del vicolo l'abbiamo aggiustata noi, quindi non disturbo nessuno, poi quando la metto in alto lì è attivo che disturbo. Ehi, glielo dico, quando viene a lamentarsi, anzi lo metto nella lista nera così non mi può più telefonare. Dico, denunciami, così già ti arrangi con l'avvocato pure. A chi imbongo l'avvocato e mi pagai i danni. Mi dici chi è quell'avvocato che mi stavi dicendo, che dopo già la consiglio vari pesi a Edu. Se credo che paga lui, allora io bago. Cacciamo a baga. Lui se è in torto o ancora peggio. E infatti quando vedono che io ho l'impianto tutto messo bene e che lui mi ha sabotato l'antenna, perché glielo dico, mi ha sabotato anche l'antenna mia del televisore, si è agganciato lui, deve essere, a me non mi funziona più e me ne ho dovuto comprare un'altra nuova e l'ho messa sotto il palo del baracchino. Così ancora peggio, allora abbiglia vera cuzzurata. E ha paradito two è meglio che one. E infatti, già li spendo quei soldi, ma con soddisfazione, almeno cazzo HDX mi rubo su va. Cazzo, posso parlare come si deve. Cazzo. Li spendo quei soldi, però cazzo, con soddisfazione. E poi vedo la televisione di lusso, perché mi metto l'antenna nuova. Vedrà che lui cazzo lo faccio schiattare. No, ma non è altro, oltre che mi ha privato dei miei diritti, si tira la zappa ai piedi, non hai capito che si tira la zappa ai piedi, perché è un diritto mio che lui mi ha tolto il diritto di vedere la televisione, perché mi ha sabotato l'antenna TV. E più mi ha sabotato anche l'antenna del baracchino. Lo faccio a pezzi. io non dico manco una parola, gli ha fatto la vita all'avvocato già, e poi giù di danni, perché io gli mando la fattura a casa sua, tanto gli sto quello che ho speso, a chi mi tengo i fatturi e vedo che l'avvocato, ma a me forse si bagari, dico, si ritenga a volte non ne vogli, se lui mi manda in tribunale si arrangia con l'avvocato, mi sto dicendo, lui lo sapete, mi ricavo pure i mutanti da sotto. Beve, lui dice che non beve, ma mi pare che se uno andare a rubare bizzi. Io non so andare a rubare, non faccio appena io sono qua, non sono al bar dove vendono. Io bevo un bicchiere di vino cazzo quando sto mangiando. E boh, già mai visto, non è di chi si sono così incazzati. E il bello poi che non vado a rompere i coglioni a nessuno, a me li hanno fatti girare come li chiedevano sul scafo. C'è il geometra che è bello sdraiato, eh. Cazzo, un comando di due servizi non è problema, no? E a chi lo mio schifo ti fa, mica è tubo d'acqua, mi, di quello grosso, da un pollice. Cazzo. Ah, ti metti un tubo da un pollice da 4 metri, come Dio, sul tetto, tu puoi salire lì, lo chiedi all'amministratore, ti fa salire e fai il cazzo che vuoi lì. Allora, ti do una mano io, cazzo, e piazziamo tutte le cose. Almeno ci divertiamo, beh. Cosa dici, preparare un dipolo pure da mettere sul tetto mio? E la carrucola c'è già nel palo mio, per salire il dipolo. Ma la strada lo facciamo salire. Buttiamo la cosa, la corda, all'albero maestro, che lo impicco a quello. Allora, il dipolo da sua Edubur. Lo trovano penzoloni. Ricciola, ricciola, Natalino, Natalino, Natalino. Così mi fa da contrappeso. Natalino, Natalino. Ah, c'ho quell'antenna multibanda, c'ho quella a fare, voglio, se voglio mi faccio quel di polo là, multibanda. C'ho quella scatoletta, aggiungo 10 metri di cavo, da una parte 10 metri dall'altra e sto andando. Antellina, andiamo di notte. E le matasse del cavo. Nessuno. E infatti, adesso può fare. Ma non me ne frega nulla, dai. Metto l'antenna della 27 e l'antenna della TV. Boh. Non pongaglia. Tanto manco ascoltando sto. Me ne faccio dalla gana, mi. E infatti. Così si attacca a pupa. E poi c'è una cosa ottima di nazionalità turca che funziona benissimo. Si ridu rimane, fa di là beh. Sono un territorio qua, come lui, gatto, sento qualche rumore strano. Tac, con l'interruttore che tu picca la botta. Come quella che ho presa io da quell'amplificatore. Attacchiamo dove passa il palo, così lui va a tagliare e cazzo rimane fulmination. E infatti, e per non avvicinarsi alla ricezione che gli dà la scorsa. E perché quello è essere umano? Devo progettarmi. E gira gira, ci metto una telecamera in modo che vedo se qualcuno mi tocca qualcosa. Così glielo spacco bene il di dietro. Spaccaglielo bene il di dietro, spaccaglielo bene, dai che ciù. Cazzo, vedrai che solo se vede la telecamera non si avvicina a lui all'antenna. Perché lo sa che è davvero un buon umano. Spacca il culo, Natale, spacca il culo. Quello mi dispiace che mi tocca stendere una barca ai soldi solo per la scala aerea. A fanculo. Tanto che su Bottolo non apri mai. e quindi faccio prima a fare come sto dicendo io. E infatti. E il motorino me lo compro, è come se me lo compro. A parte quello. Adesso fra un po' viene la 50. Cibao, cambio, canale reghe. E viene fra un po' e a fare compagnia con la signora. Ci sono le figlie che sono amiche sue, quindi ce la mideggiano un po', come. Attenzione, canale reghe, cambio. Cazzo, non c'è entrato anima viva. Sono due ore parlando da solo e non c'entra nessuno. Attenzione, canale 10. Forse stanno ascoltando. Attenzione, canale 10, cambio. Quindi ho fatto bene a non andare da nessuna parte. Canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. Luca. Attenzione al binario. Attenzione al binario. Attenzione binario. Cambio. Attenzione binario, cambio. Attenzione binario, cambio. Attenzione binario, cambio. Attenzione binario, cambio. Sei grigio. Cazzo, ho visto quella che c'ha, quello che parla da solo. Ehi, cazzo, vi faccio vedere una cosa, faccio una cosa arrimata, se la vedi la gonsura. Cazzo, tu io ne vuoi sapere poco di cosi. Qua te lo dico. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno?